2024 2024 di Enrico Pagliarini. Ed eccoci di nuovo insieme, bentornati a 2024, siamo ancora in attesa del decreto comunicazioni, ormai sembra una litania. Lo attendiamo dal 3 marzo, quando il governo aveva approvato il piano banda ultra larga, che senza un decreto attuativo conta zero. Allora, il decreto è pronto, ha ricevuto il via libera, diciamo informale, anche da Bruxelles, e quindi non si capisce che cosa si attenda. Allora, la prossima possibilità è il Consiglio dei Ministri di martedì prossimo, quindi vedremo che cosa succederà. A ulteriore supporto della strategia del governo, che punta molto sulla fibra, sull'uso della fibra ottica, è arrivato in settimana un parere della Commissione europea che dice sostanzialmente: la Commissione è intervenuta riguardo ad un progetto simile tedesco, comunque quello che ha detto la Commissione europea riguarda poi tutti, i soldi pubblici non devono finanziare il vectoring, che è la tecnologia che si usa spesso per l'FTTC, il Fiber to the Cabinet, cioè quando si fa arrivare la fibra ottica fino all'armadio di strada e da lì si rianima il rame facendolo diventare più performante. Allora, il vectoring, l'abbiamo detto anche varie volte, insomma lo sanno un po' tutti, è anticompetitivo, e quindi la Commissione europea dice non bisogna usare soldi pubblici per finanziare una roba del genere. Un tema che riguarda la TV e la telefonia mobile. Prendiamo sempre spunto dalla Germania, perché la Germania è il primo paese europeo a lanciare un'asta per assegnare alla telefonia mobile le frequenze della banda dei 700 MHz che attualmente vengono utilizzate dalla TV, cioè ci trasmettono dei segnali televisivi. Allora, l'incasso per lo Stato tedesco dovrebbe raggiungere i 5 miliardi e questo potrebbe accelerare aste di questo tipo in altri paesi europei. Quando gli italiani sentiranno che i tedeschi hanno guadagnato 5 miliardi mettendo all'asta questa banda, queste frequenze, beh, molti al governo potrebbero dire però qualche miliardo, insomma magari in Italia non si guadagnano 5 miliardi, però alcuni miliardi sicuramente potrebbe essere un buon modo per pagare alcuni dei conti dello Stato. Allora, secondo le indicazioni europee, il termine massimo per assegnare queste frequenze alla telefonia mobile, quindi alla banda larga mobile, è il 2022, ma il termine massimo, c'è invece un termine minimo che è il 2018, quindi i tedeschi si sono mossi per primi. Vedremo che cosa faranno gli altri. In Germania la parte del leone la sta facendo Vodafone, che molto probabilmente si aggiudicherà gran parte di queste frequenze. Gli altri due player sono Deutsche Telekom e Telefonica. Adesso alcune notizie in breve della settimana nelle nostre Digital News. Digital News. Questa settimana è stata svelata l'esistenza di un gruppo di lavoro negli Stati Uniti formato da sviluppatori dei principali browser, quindi parliamo di Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, eccetera, eccetera. Allora, questo gruppo di lavoro punta a rendere più veloce la navigazione sul web. Questo gruppo si chiama WebAssembly. Digital News. Da questa settimana anche gli italiani potranno lanciare i propri progetti su Kickstarter, la piattaforma di crowdsourcing, di crowdfunding più famosa al mondo e usata per lanciare molte tecnologie e molti progetti che poi hanno avuto anche un buon successo. Digital News. A proposito dell'Italia, da questa settimana abbiamo una nuova piattaforma di streaming video online, è quella di Discovery e si chiama Dplay. Molto semplice, Dplay è gratuita, si possono vedere i contenuti dei canali distribuiti sul digitale terrestre dal gruppo Discovery come Real Time, D-Max, Focus, Giallo. Nelle prossime settimane arriveranno anche DJ TV, K2 e Frisbee. La particolarità molto curiosa è che su web si vedono questi canali in HD, in alta definizione, mentre queste trasmissioni sul digitale terrestre sono in definizione standard. Digital News. Una delle tendenze in atto nel mondo del cloud è l'apertura di nuovi data center in Europa. Molti dei player del cloud sono americani e fino a qualche anno fa i principali data center erano solo negli Stati Uniti. Allora, vengono aperti in Europa sia per motivi legali, perché l'Unione Europea ha chiesto che i dati rimangano in Europa, ma anche per diminuire la latenza di upload e download dei dati e delle applicazioni. L'ultima notizia riguarda IBM, che ha aperto un centro a Cornaredo alle porte di Milano. Digital News. Questa settimana c'è stato il Paris Air Show, uno degli appuntamenti più importanti per l'industria aerospaziale. Sicuramente assieme alla fiera di Farnborough vicino a Londra è l'appuntamento più importante in Europa. Poche le notizie rilevanti, una merita attenzione. Perché? Allora, l'Airbus ha annunciato di aver vinto un appalto per costruire i satelliti della costellazione di OneWeb, la startup fondata da Branson, il capo della Virgin, e anche da Qualcomm, che ha come obiettivo portare internet in tutto il mondo via satellite. Airbus dovrà produrre 900 piccoli satelliti, 700 verranno messi in orbita entro il 2018, mentre gli altri 200 resteranno a terra come backup. Costo del progetto 2 miliardi di dollari. Il mondo è bello anche perché ci sono persone che hanno un sacco di soldi ma che pensano in grande e lanciano progetti come quello che abbiamo commentato, OneWeb. Molto bello e interessante, poi vedremo se ci riusciranno, non è così semplice. Adesso parliamo dell'E-Cube, la più importante fiera al mondo per l'industria dei videogiochi. Da Los Angeles c'è Luca Tremolada del Sole 24 Ore. Luca, bentornato. Grazie Enrico, un saluto a tutti i tuoi ascoltatori. Si dice E-Cube o E3, come meglio dire? Gli americani non dicono, dicono Expo, che per questo la dice lunghissima, per cui hanno questa, saltano un po' i nomignoli. A noi piacciono moltissimo le sigle, loro vanno, è l'Expo del videogioco, è la grande fiera del videogioco, è la più grande fiera internazionale, ecco, diciamolo così. Sì, esatto. Si parla più che altro di hardware o di software, cioè di titoli di videogioco? Ma guarda, quest'anno l'attesa, insomma, eravamo tutti lì ad aspettare di capire di qualche cosa di più sulla realtà virtuale e abbiamo una data certa, il 2016. Questa grande fiera del videogioco ha sancito che l'anno prossimo arriveranno i caschetti. I caschetti sono dei visori che ci permettono di entrare dentro la realtà virtuale. Sappiamo che ci sono moltissimi produttori che ci stanno lavorando, non solo nel mondo dei videogame, tipo Samsung. Adesso abbiamo la certezza che Oculus, che è il più grande di tutti, uscirà nel 2016, anche grazie a un accordo con Windows 10. Sappiamo che Sony PlayStation porterà il suo Project Morpheus, si chiama così, che è un visore di realtà virtuale nel mondo e in Europa, e poi sappiamo che stanno arrivando a un'altra decina di piccoli caschetti, di piccole realtà, di piccoli aggeggi che ci permetteranno di poter usufruire di esperienze in tre dimensioni. Allora, la realtà virtuale ha un problema, è difficile da spiegare a voce, devi metterti il visore ed entrarci dentro. L'effetto, noi abbiamo passato, noi quando dico noi, intendiamo noi giornalisti che seguiamo un po' questi temi, 2 giorni con la testa dentro questi occhialoni, e devo dire che il gioco è veramente molto bello. C'è una demo tecnica, si chiama così, che sono delle esperienze dove ti ritrovi seduto, legato su una sedia, con uno zombie davanti armato di coltello che si diverte a tagliuzzarti. Ecco, ti assicuro che c'erano 40 giornalisti, il 40% dei giornalisti che urlava come un bambino, sì. Tanto quindi, per intenderci di che cosa stiamo parlando. Quindi ti convince? Allora, non saranno videogiochi, mi convince questo, che paradossalmente lo sbocco principale della realtà virtuale non sarà il videogioco come oggi lo intendiamo, cioè esperienze di gioco che vanno dalle 20 alle 100 ore, giochi estremamente complicati, strutturati, difficili. Penso che nascerà una nuova forma di intrattenimento tra l'applicazione, quella del telefonino, e il gioco. Sarà probabilmente non lunga, probabilmente durerà 4, 5, 10 minuti e creerà una nuova forma di intrattenimento, perché quello che è certo, Enrico, è che quando sei lì dentro succedono delle cose, riesci ad emozionarti, hai un senso di straniamento, di fuga dalla realtà, lì bisogna lavorare e lì stanno lavorando. Il gioco sarà un pezzo di questa realtà aumentata, probabilmente sarà quello che riuscirà a farla vendere, a farla crescere commercialmente, però mi immagino che non sarà tutto. Ti racconto un'altra cosa. Durante a Los Angeles hanno anche mostrato delle applicazioni delle HoloLens, ne avrete sicuramente parlato durante la trasmissione, che sono questi visori di Microsoft in realtà aumentata, non sì. realtà virtuale, cioè la differenza è che non sei completamente in un mondo digitale, ma vedi il mondo normale con degli ologrammi che compaiono sul tuo sì. visore, delle aggiunte. Ecco, la cosa straordinaria è quando abbiamo visto comparire su un tavolo, no, tu immaginati un tavolo da cucina, l'omino ha indossato questi HoloLens e magicamente si è composto una sorta di Lego digitale. Il gioco si chiama Minecraft, lo cito perché è abbastanza conosciuto dai ragazzini. Sì. Famoso. Per cui che cosa succede? Che tu ti ritrovi in un ambiente normale a giocare a questa sorta di Lego, di cubetti, a costruzione di mondi, in un mondo completamente a metà strada, fatto di due sostanze, del mondo del digitale dei bit e quello della realtà. Ti assicuro che l'effetto è stato straordinario. Molto interessante. Senti, per quanto riguarda le console, ci sono novità o passiamo oltre? Ma passiamo oltre, nel senso che l'unica novità è che ci si domanda, almeno gli analisti del settore si domandano fino a quanto dureranno. Questo è un vecchio mantra di questa industria, però devo dire che l'impressione qui è che Microsoft stia sempre più spostando il focus su Windows 10. Cosa vuol dire? Che utilizzerà Windows 10 come piattaforma per produrre giochi. E di conseguenza Xbox sarà uno dei servizi, uno dei terminali di questa piattaforma. Per cui diciamo che il focus non sarà più centrato il compasso sulla console, ma sulla piattaforma. PlayStation va benissimo, va fortissimo, ha vinto la sfida con le altre. Nintendo invece sta ragionando su una nuova console. C'è un nome in codice che è RX, non sappiamo nulla, sappiamo che probabilmente, anzi siamo quasi certi che verrà presentata sempre qui a Los Angeles, ma tra un anno. Qualcuno pensa che sarà uno smartphone, qualcuno pensa che sarà un tablet, però insomma loro stanno ragionando sul futuro, ecco. Allora, parliamo anche dei titoli, perché ovviamente l'industria del videogioco si basa anche su console che vendono milioni di pezzi su smartphone, tablet, computer, ma ovviamente la parte software dei titoli è molto importante. Ah, diciamo subito, Luca, che ormai il mondo dei videogiochi, intesi come produzione culturale proprio del videogioco in sé, ha superato il cinema. Stiamo parlando di un'industria gigantesca. È un'industria da 80 miliardi all'anno ed è un'industria soprattutto che ha delle produzioni con budget altissimi. Non vi cito Destiny che insomma ha un budget di 500 milioni di dollari, mezzo miliardo. Pazzesco, per cui, insomma, pazzesco. È pazzesco. Sono produzioni strane. Allora, teniamo conto di una cosa, che un videogioco costa 70 euro, andare al cinema costa dai 7 ai 12, no? Dipende se vai la domenica o super settimana. È anche vero che un videogioco promette anche 100 ore di intrattenimento. Cioè, sono due mondi molto diversi. L'altra differenza è che quando tu giri, per esempio, una scena d'azione, di un film d'azione bellissimo, tu hai in mente solo un punto di vista. Quando tu crei un videogioco, tu devi creare centinaia di punti di vista perché il personaggio si muove. Cioè, questo per dire che ci sono costi di sviluppo molto differenti. Detto questo, che però va sottolineato, cioè costruire un film, realizzare un film è estremamente diverso dal programmare un videogioco. In questo momento, dal mio punto di vista, ma io sono un giocatore, lo dichiaro, l'abilità, la tecnica, la narrativa, la capacità di creare anche un nuovo linguaggio è tutta dalla parte del videogame. Cioè, le cose più innovative nascono in quel mondo lì. Sì. Il cinema, insomma, sta un po' ripetendo alcuni schemi. Se uno sta cercando delle nuove idee, sta nel videogioco. Per esempio, i videogiochi stanno interpretando il grande fenomeno delle serie TV. per cui stanno provando e non sempre ci riescono a usare la grammatica delle serie, no? Le puntate, le stagioni, per creare delle esperienze di intrattenimento più moderne, ed è estremamente interessante. Molto interessante, sì, estremamente interessante. Senti, va citato qualche titolo particolare perché magari c'è stato un annuncio inatteso, a sorpresa? Ma allora, dovete sapere che è anche un'industria un po' di matti, quella del videogioco, nel senso che ogni anno, negli ultimi 5 anni, tra gli addetti ai lavori c'era questo gioco, ma quest'anno vedremo qualche cosa di Last Guardian. Io so che alla maggior parte del pubblico Last Guardian non dice nulla, però in realtà è uno dei giochi più attesi dell'industria. È stato annunciato nel 2007, Last Guardian è, e quest'anno abbiamo una data, uscirà nel 2016, per cui per tutti i fan del maestro Fumito Ueda, che è un giapponese stranissimo, visionario, mezzo matto ma geniale, sappiamo che l'anno prossimo uscirà, incrociamo le dita, questo gioco. Perché è particolare questo gioco? Perché è diverso? Perché Fumito Ueda non crea videogiochi tradizionali, crea delle esperienze, delle piccole poesie classiche, straordinariamente diverse da tutti il mondo dei mostri, delle distruzioni, delle guerre, delle battaglie. In The Last Guardian tutto ruota intorno alla relazione tra un bambino e una sorta di mostro, di creatura, che sembra una iena con le piume, un drago alato, che devono imparare a conoscersi. Per cui la sequenza che hanno trasmesso durante l'E3 è questo bambino che cerca di guadagnarsi la fiducia del mostro, chiamandolo, incoraggiandolo, avvicinandosi, facendogli una carezza, per creare una relazione. Cioè si parla sostanzialmente di una relazione di un bambino con un cucciolo. Ergo, ti assicuro che sembra una stupidata raccontata così, ma quando sei lì dentro, quando sei dentro questi mondi completamente digitali e ti ritrovi davanti, no, questa stranissima creatura, gigante, anche un po' paura, beh, cominci a provare qualcosa di diverso dal gioco classico. Ecco perché c'è una grande parte di questa industria che lo sta aspettando. Sì. Ti faccio un'ultima domanda, visto che hai citato un caso giapponese. I giapponesi sono sempre stati un motore molto importante di questa industria. A livello geografico, culturale, come siamo messi? Cioè, i giapponesi sono ancora uno dei 2 o 3 poli di attrazione? Come stanno cambiando le cose? Farò arrabbiare tantissimi dei tuoi ascoltatori, ma i giapponesi hanno un po' perso di smalto. Nel senso che si sono un po' fatti fregare sul lato industriale, sono sempre stati più bravi a costruire e inventare videogiochi, solo che ci mettevano troppo tempo. Gli americani negli ultimi anni sono riusciti nell'operazione di industrializzare questa industria, cioè, detto in un altro modo, insomma, di rendere i tempi di sviluppo del videogioco più umani. Questo che cosa ha portato? Ha portato che oggi la creatività e la gran parte della produzione è tutta negli Stati Uniti. In Europa abbiamo cose molto interessanti, diciamolo subito, però insomma si è spostata in Occidente. I giapponesi sono dei grandi ispiratori, questo sì, per cui loro hanno inventato determinati generi, loro hanno inventato determinati personaggi, figure, pensiamo alla Nintendo, pensiamo a Super Mario, per cui insomma loro sono un po' i padri del videogioco. Però oggi chi produce le esperienze più grosse, i Colossal, sono tutti negli Stati Uniti. Ecco. Luca, grazie per essere stato con noi, buon lavoro e anche buon divertimento e buon viaggio per il ritorno, a presto. Grazie Enrico. Questo è 2024, la nostra versione podcast con tutte le nostre interviste in formato integrale, anche la chiacchierata che abbiamo realizzato con Luca Tremolata ve l'abbiamo proposta in versione estesa, molto più lunga di quella che è andata in onda nei nostri appuntamenti venerdì tra le 22 e le 23, domenica tra le 13 e le 13:30, ma voi avete fatto bene a scaricare questa versione, che è la versione digitale di 2024. Ci risentiamo tra poco. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Prima di proseguire con il nostro prossimo ospite, il nostro prossimo tema, una notizia tra quelle importanti della settimana che riguarda la sicurezza. Tre diversi studi hanno messo in evidenza problemi di sicurezza che potrebbero colpire i sistemi operativi iOS di Apple e alcune versioni di Android utilizzate da Samsung, soprattutto sui telefoni più recenti di Samsung. Allora, Samsung ha già comunicato che farà presto un aggiornamento del sistema operativo e anche Apple potrebbe fare presto un aggiornamento. Allora, gli aggiornamenti sono dipende dai sistemi operativi, dipende da che tipo di problemi ci sono, comunque abbastanza frequenti, e l'unico modo per risolvere questo problema è sostanzialmente aggiornare il sistema operativo. Quindi un ulteriore invito, vi facciamo spesso l'invito ad aggiornare tutti i software, le applicazioni, ma a maggior ragione il sistema operativo, è importante controllare sempre gli aggiornamenti disponibili per il proprio telefono e, lo abbiamo detto in varie occasioni, tendenzialmente le marche più importanti offrono aggiornamenti più frequenti. Comunque quello dell'aggiornamento è un tema molto importante. Adesso facciamo il punto su come la tecnologia permette oggi di gestire in modo intelligente ed efficiente un parco di veicoli, non solo automobili ma anche furgoni, mezzi pesanti, un parco che può essere anche molto piccolo. Ne abbiamo parlato pochi giorni fa con Christian Gironi di TomTom Telematics, fa parte del team italiano di TomTom Telematics. Questa è la divisione di TomTom che si occupa proprio di questi servizi. Sapete che TomTom è famosa per i navigatori, quindi fornisce indicazioni su quale strada prendere, ci dà informazioni sul traffico. Ci sono tante altre tecnologie che messe assieme a questi dati possono fornire informazioni utili alla gestione di un parco veicoli. Allora sentiamo che cosa offre oggi in generale la tecnologia. Allora, noi cerchiamo con questo tipo di informazioni di dare alle aziende quelli che noi chiamiamo degli insight, ovvero sia estrarre dall'uso delle nostre tecnologie delle informazioni che li aiutino a prendere delle decisioni per migliorare il modo in cui gestiscono le proprie flotte di veicoli. Partiamo dal dotare i veicoli di soluzioni di localizzazione, per cui possiamo sapere dove si trovano i veicoli, possiamo collegare questi strumenti alle informazioni del veicolo per sapere se i veicoli consumano, se i veicoli si muovono in modo corretto sul territorio, possiamo dare informazioni sullo stile di guida e quindi garantire la sicurezza dei veicoli e anche sul CO2 per esempio, quindi anche la parte green e che impatto ambientale hanno queste flotte. Queste informazioni vengono veicolate in maniera sicura all'azienda, che è in grado quindi sia di avere informazioni in tempo reale, ma può costruire tutta una serie di report che gli consentono di prendere decisioni e di capire se si sta muovendo nel modo giusto con i propri veicoli. Allora, tu ci hai già dato alcune informazioni che meritano un approfondimento. Allora, diciamo che esiste in tutti gli autoveicoli una porta che potrebbe essere come le porte dei computer alle quali ci si attaccano degli accessori, degli aggeggi esterni e con le quali noi possiamo raccogliere delle informazioni, una porta standard che ci fornisce delle informazioni. Che tipo di informazioni? Allora, questa porta, come tu giustamente l'hai descritta, è una porta standard, è stata concordata l'installazione di questa porta su tutti i veicoli a partire da una certa data ed è la porta che inizialmente serviva e serve attualmente anche ai meccanici per verificare lo stato di funzionamento. Cioè, quando si dice portato la macchina dal meccanico e lui l'ha attaccata al computer. Esatto, ecco. Al tester o al computer, e permette loro di verificare che il motore sia in buono stato, l'impianto elettrico sia in buono stato. Ma questa interfaccia prevede anche che si possano dare i dati delle stesse informazioni al suo autista, quindi a chi è il titolare dell'automobile. Quindi io posso sapere il consumo in tempo reale, posso sapere informazioni sulle condizioni del motore, posso sapere se ho un guasto in corso. Quindi le spie che si accendono sul cruscotto in forma informatica escono anche da questa porta. Quindi io conosco tutte le informazioni istantanee del motore. Quindi questo è un primo modo per avere delle informazioni sul veicolo. Le altre informazioni che io vedo sul display, nel vostro caso di un navigatore TomTom, sono la posizione, le mappe che prendo da internet e poi tutta una serie di informazioni che arrivano da internet, come ad esempio il traffico. Ci sono altre informazioni che posso integrare? Grazie all'integrazione con i dati del veicolo possiamo suggerire all'autista un modo di guidare più corretto e più sicuro, per cui possiamo per esempio avvisarlo che a breve c'è l'uscita dell'autostrada, per esempio lui può sollevare il piede e con la sola inerzia del veicolo approcciarsi all'uscita senza dover magari frenare più tardi, e quindi gli suggeriamo un modo per risparmiare per esempio carburante, oppure gli suggeriamo di cambiare la marcia perché il regime di giri è troppo elevato, e quindi possiamo veramente fare un tutoring, un coaching all'autista per farlo guidare meglio e in maniera più sicura. Bene, adesso tu ci hai dato delle informazioni molto molto semplici. Io posso anche integrare tutto ciò, e qui viene il bello, potremmo dire, con i dati tipici dell'azienda. Quindi le aziende hanno sistemi gestionali, vari sistemi per la gestione tradizionale dell'azienda. Se io integro i dati del navigatore, i dati dell'autoveicolo, dove mi trovo, il traffico, eccetera, eccetera, con i dati dell'azienda posso fare tante cose. Facciamo degli esempi per farci capire. L'azienda che fa le consegne sul territorio si prefigge l'obiettivo di far consegnare a un furgone 15 colli in una giornata. Manda il piano di consegne tramite TomTom al dispositivo a bordo del veicolo e a metà della mattina si accorge che causa traffico le ultime tre consegne non potranno essere fatte. Lo sa in tempo reale, può chiamare il cliente e avvisarlo, e questo è un miglioramento del servizio. Posso addirittura io dall'azienda mandare sull'autoveicolo, senza che l'autista lo sappia prima, ma lo vede direttamente dal display sul veicolo, un avviso urgente, che ne so, vai dal tal cliente perché c'è un'urgenza. Assolutamente sì, io posso mandare dei messaggi puntuali direttamente a un veicolo o a un gruppo di veicoli, magari posso avvisarli che una manifestazione blocca tutta una sezione di strade, per esempio, oppure avvisarlo di recarsi velocemente da un cliente, e questo senza dover prendere sul telefono, senza dovergli far rispondere al telefono, ma semplicemente con un messaggio che il navigatore leggerà automaticamente al suo arrivo, quindi senza distrarre l'autista. Senti, ma tutte queste cose non si possono fare con gli smartphone? Oggi noi abbiamo sostituito il navigatore molto spesso con lo smartphone. Sullo smartphone abbiamo le mappe, possiamo chiedere allo smartphone con tanti servizi, devo andare nel tal posto, indicami la strada, ci sono anche le informazioni sul traffico. E tutto ciò non può essere fatto in modo gratuito con tutto quello che c'è sugli smartphone, con le applicazioni? Sicuramente le applicazioni sugli smartphone consentono a ogni individuo di organizzare i propri viaggi nel migliore dei modi, e anche in modalità praticamente gratuita, pagando quello che già pago per il traffico dei miei dati e quant'altro. Sicuramente usare una piattaforma di tipo business come la nostra dà tutta una serie di vantaggi diversi. Io ho un sistema che è collegato al veicolo e quindi mi permette di avere anche informazioni sul mio mezzo che servono all'azienda per gestire nel modo più efficiente il veicolo. Quindi non si tratta semplicemente di dare uno strumento in mano alla persona, ma anche di monitorare il veicolo, fare asset management, noi diciamo. Quindi queste due cose, se le mettiamo insieme, io devo essere con un oggetto montato sul veicolo. Se sono solo sull'applicazione, l'applicazione segue la persona, non segue il veicolo. Senti, questi servizi, io ho visto dai dati che voi avete illustrato, hanno ancora una percentuale di penetrazione, cioè fatto 100, il numero di aziende che hanno mezzi in movimento, che quindi potrebbero beneficiare dell'informatica per essere più efficienti, hanno una penetrazione ancora molto bassa. Parliamo di 12%, insomma tra un 10 e il 15%, ma perché? Visto che sono anni che questo tipo di informazioni, questo tipo di tecnologie sono disponibili sul mercato. È vero, e anche per me quando sono arrivato in questa azienda è stata un po' una sorpresa. Sicuramente incontrando i clienti e vedendo un po' come siano abituati a lavorare molte aziende, diciamo che non c'è una grande percezione proprio a livello di cultura aziendale dei vantaggi che si possono ottenere adottando queste soluzioni, e quindi c'è anche un importante lavoro che facciamo noi di spiegare e di motivare al cliente perché adottando certe soluzioni ci sono certi risparmi. Diciamo che il cliente si deve anche trovare nelle condizioni di avere bisogno di risparmiare, altrimenti fa fatica a pensare di fare altri investimenti. Sì, tra l'altro la percentuale che ho citato è una percentuale europea, quindi non siamo messi molto peggio, o sì invece? Sì. Assolutamente sì, in Italia. Siamo messi peggio? Siamo messi peggio. Gli ultimi dati che ho letto di un report di analisi di settore parlavano di una penetrazione di servizi di fleet management in Italia, quindi escluso il tema di black box per le assicurazioni, attorno al 4-5%. e consideriamo che abbiamo circa 4 milioni di veicoli commerciali in Italia. Tu hai citato il risparmio, è solo un motivo di risparmio, cioè utilizzando questi sistemi risparmio carburante e anche tempo, ma solo? Diciamo che i vantaggi sono molteplici. Il risparmio è molto sentito perché permette di ripagare rapidamente la soluzione, sicuramente il tempo mi permette di guadagnare efficienza. Noi non diciamo ai clienti che hanno bisogno di meno camion, ma che con gli stessi camion possono fare più lavoro di prima perché sono organizzati meglio. Beh, magari anche di meno camion, forse. Però dice, diciamo, poi si spaventano quelli che vendono i camion. Abbiamo un margine di efficienza che loro possono impiegare nel migliore dei modi. E sicuramente rendiamo le flotte più sicure, perché possono monitorare il modo di guidare delle flotte e quindi migliorare la sicurezza. E anche c'è un impatto ecologico che comincia a sentirsi. Noi per esempio calcoliamo in tempo reale il CO2 generato dai veicoli e quindi consentiamo alle aziende anche di poter dire: oggi grazie all'adozione di certi comportamenti e di certe soluzioni emettiamo in atmosfera meno CO2. Quindi ci sono veramente tanti tanti argomenti che possono essere toccati. Noi non l'abbiamo detto, ma va ricordato che la connessione tra il veicolo e l'azienda avviene via internet, giusto? Sì, avviene tramite le reti di telefonia mobile a tutti gli effetti. È una connessione particolare dedicata al mondo del machine to machine o Internet of Things, che dire si voglia. Una soluzione molto specifica e sicura, cablata proprio per questo tipo di servizio, ma a tutti gli effetti sfruttiamo una rete che è la rete di telefonia mobile esistente sul territorio. Certo, e noi però non ce ne accorgiamo di fatto. Assolutamente no, non è per il cliente, non se ne rende nemmeno conto e non ha nemmeno la necessità di interagire con l'operatore di telecomunicazioni, perché ci sobbarchiamo noi anche questa parte. Sì. Senti, come raccogliete le informazioni, visto che tra le varie informazioni, quelle diciamo alcune molto importanti sono quelle del traffico, che utilizziamo anche per i nostri servizi, diciamo da consumatori finali e in alcuni casi in modo gratuito, ma nel vostro caso come raccogliete queste informazioni, visto che il network di TomTom è sicuramente uno dei più popolati di veicoli e di informazioni sul traffico, molto puntuale? In effetti il lavoro di raccolta di questi dati è un lavoro veramente di una grande dimensione, perché facciamo affidamento su tutti i navigatori commerciali, che quindi chiunque può acquistare, di tipo connesso, cioè quelli che hanno i servizi collegati in tempo reale, perché ci comunicano la velocità e la posizione. Poi facciamo affidamento a tutti coloro che hanno, su tutti coloro che hanno le applicazioni installate sui loro smartphone. Quindi se tu hai il navigatore di TomTom installato su uno smartphone, nel momento in cui scarichi informazioni ci dai anche informazioni e quindi ci dici a che velocità ti stai muovendo e in quale punto sei. Poi ci sono tutte le black box di TomTom Telematics installate sui veicoli commerciali e poi acquisiamo anche informazioni dalle cosiddette fonti istituzionali, che possono essere dati di traffico dati dai gestori delle autostrade, piuttosto che fare accordi con gli operatori di telefonia per avere aggregati anche i dati dei telefoni, dove sono e come si stanno muovendo. Tutta questa grande mole di dati viene aggregata nei nostri data center, dove grazie a degli algoritmi molto performanti ci permettono ogni minuto di restituire ai nostri utenti un'informazione aggiornata di traffico in tempo reale. Senti, ti faccio un'ultima domanda sulla privacy, che è un tema molto importante. Allora, innanzitutto, che cosa si può fare con queste tecnologie per tracciare, per monitorare quello che stanno facendo i lavoratori sul territorio? Quindi questo è sicuramente un tema che tocca la privacy, ma anche l'efficienza poi dell'azienda. Sicuramente possiamo seguire un veicolo, sapere dove si trova, che velocità istantanea ha, e possiamo conoscere anche il dato di accelerazione istantanea, quindi se per caso il veicolo sbanda o fa una frenata molto brusca o addirittura fa un incidente, possiamo avere immediatamente questa informazione. Naturalmente queste informazioni poi in azienda vengono gestite secondo quello che ci dice la normativa della privacy e secondo quello che ci dice l'accordo che l'azienda ha realizzato con i suoi dipendenti per consentire o meno queste informazioni di essere analizzate e viste a seconda del momento della giornata e del tipo di mansione che sta svolgendo il lavoratore in quel momento. Beh, quest'ultimo tema è estremamente attuale, perché avrete sentito sicuramente parlare delle modifiche previste allo Statuto dei lavoratori modifiche che sono contenute in uno dei decreti attuativi del Jobs Act, e non c'è dubbio che sui controlli informatici ci sarà maggiore libertà da parte delle aziende, però sul punto geolocalizzazione la libertà non è così estesa, perché ci sono c'è un articolo in modo particolare, ma ci sono tutta una serie di norme relative alla privacy che di fatto obbligano ad una verifica preliminare, cioè bisogna stabilire che cosa si vuole fare per poterlo poi fare in maniera più o meno libera, senza eventualmente un accordo sindacale all'interno dell'azienda. Quindi sul tema geolocalizzazione le cose sono sicuramente molto delicate. Sul tema videosorveglianza non è cambiato nulla, perché bisogna ancora fare un accordo con i lavoratori all'interno dell'azienda. Invece per quanto riguarda i controlli informatici sicuramente c'è maggiore libertà. Per controlli informatici intendiamo il controllo del traffico telefonico, dell'email, della navigazione web, eccetera eccetera. Tuttavia, perché su questo argomento è bene essere precisi, puntuali con la voce degli esperti, una volta che questa norma sarà approvata, visto che stiamo parlando ancora di una norma in discussione, è vero che il governo è stato delegato e quindi farà decreti legislativi che non devono essere convertiti dal Parlamento e sui quali le commissioni che stanno analizzando questi provvedimenti non devono esprimere un parere vincolante, quindi è solo un parere consultivo. Quindi diciamo che le novità dovrebbero essere abbastanza certe, però anche il governo potrebbe cambiare qualche dettaglio. Comunque, tema molto interessante, estremamente attuale. È anche vero che tutto quello che era stato scritto negli anni 70 non poteva necessariamente tenere conto delle novità tecnologiche. Dunque, questa 2024 ci fermiamo. A proposito di questo tema, torneremo sicuramente a parlare di tutto quello che si può fare con e sui veicoli, perché questa è un'area di sviluppo tecnologico estremamente importante. Noi abbiamo parlato di gestione delle flotte, gestione dei veicoli, integrando magari tutto ciò con i sistemi aziendali, e in questo campo si possono fare tantissimi esempi. Ho parlato recentemente con un'azienda che ha realizzato un sistema per le ambulanze, e quindi si sfrutta le capacità magari di un navigatore di instradare il veicolo e farlo andare nel modo più efficiente dal punto A al punto B. Lo si interseca con i dati sul traffico e anche con tutte le informazioni che arrivano dalla centrale operativa del 112, laddove il numero unico 112 è già attivo, comunque il 118. Questo ad esempio è una possibilità, ma ce ne sono tantissime di possibilità. Dicevo, oltre a quest'area c'è tutta la parte relativa agli antifurti, quindi all'utilizzo di queste tecnologie per antifurto, per andare a ritrovare l'automobile. Poi c'è tutto il tema dello sfruttamento, dell'utilizzo delle black box, quindi delle scatole nere connesse al veicolo, connesse in rete e localizzate con il GPS per l'assicurazione, per tutti i dati che possono essere interessanti per l'assicurazione. Insomma, è un mondo molto vasto e in sviluppo molto molto molto rapido, non lo so. In campo assicurativo sicuramente molto rapido. Come abbiamo sentito, per quanto riguarda la gestione delle flotte, potremmo essere anche un po' più veloci. Adesso ci fermiamo, questa è 2024, la nostra versione podcast. Tra poco parliamo di e-commerce. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024, io sono Enrico Pagliarini, questo è il programma di tecnologia di Radio 24, in onda il venerdì tra le 22 e le 23, domenica tra le 13 e le 13.30 e sempre in podcast. Hanno molto successo i nostri programmi in podcast, quindi vi consiglio di abbonarvi, è un abbonamento gratuito, basta utilizzare i vari software, ci sono molte applicazioni per smartphone che vi permettono di gestire i podcast. Bene, vi abbonate al 2024 così avete tutte le nostre puntate sempre pronte e disponibili sul vostro smartphone, sul vostro computer, sul vostro tablet. Dunque, quante volte abbiamo detto che l'e-commerce, il commercio elettronico, è una straordinaria opportunità per molte aziende del Made in Italy? Certo, non per tutte, ma per una buona parte. Non è facile, è tutt'altro che facile, però le opportunità ci sono, il mercato è sconfinato, incredibile. Però vorrei raccontarvi questa sera la storia, anzi, sfruttiamo il nostro ospite, il prossimo ospite, per raccontare una storia che mi ha interessato, affascinato dalla prima volta che ho sentito un po' di tempo fa, la storia di Luisa Via Roma, un negozio nel centro di Firenze che ha deciso di investire anche sull'e-commerce per espandere il proprio business in giro per il mondo. Ne abbiamo parlato con Nicola Antonelli, che è il responsabile e-commerce di luisaviaroma.com. Cosa vendiamo? Vendiamo moda. Vendiamo moda di designer molto importanti, direi tra i principali attori nel mondo moda. Vendiamo moda di alto livello, una fascia molto importante di prezzo e di qualità in tutto il mondo. Spediamo in oltre 120 paesi. Nella maggior parte di questi paesi siamo in politica di free shipping e free returns, quindi tu hai vivi a New York, puoi tranquillamente comprare qualcosa su Luisa Via Roma, provartelo, non hai costi di spedizione. Se il capo non è di tuo gradimento, puoi tranquillamente rispedirlo senza nessun costo aggiuntivo. Bene, questo è quello che fate in generale. Poi approfondiamo alcuni punti interessanti a proposito di e-commerce. Tutto parte, noi siamo all'interno dello storico negozio Luisa in via Roma a Firenze. Tutto parte da qui. Però è interessante come tutto è iniziato, perché voi avete cominciato a fare e-commerce quando in pochi facevano e-commerce, giusto? Decisamente, direi quasi nessuno. Noi abbiamo iniziato nel lontano 99-2000, che è più o meno quando è nato Yux ed è nato Net-a-Porter. Però sia Yux che Net-a-Porter avevano un progetto industriale legato all'online, con un investimento preciso, con una struttura che nasceva per fare quel lavoro là. Noi abbiamo iniziato con quello che era lo staff del negozio, quindi è stato un crescendo. Abbiamo fatto investimenti molto contenuti rispetto ad altri player, investimenti in tecnologia, perché abbiamo di fatto trasformato quello che era solo un negozio fisico in un negozio digitale. Quindi abbiamo sfruttato la posizione del negozio fisico, che dal 1930 è in via Roma, quindi nel cuore di Firenze, in una delle strade più belle di Firenze, per la generazione del lead, del contatto. Quindi tutti i clienti che in particolar modo stranieri entravano in negozio venivano poi ingaggiati, passami il termine, per continuare l'esperienza di shopping anche a casa. Perché erano molti clienti che, una volta tornati a casa, che ne so, in Giappone, negli Stati Uniti, in Russia, eccetera, eccetera, volevano continuare a acquistare. Assolutamente, assolutamente. Tu pensa che arrivavano al fax dell'ufficio, che era prima al quinto piano di via Roma, perché lo staff era molto ridotto, quindi c'era un ufficio con circa 6-7 persone. Arrivavano i fax delle carte di credito, cioè della fotocopia della carta di credito, da tutto il mondo, perché erano clienti che erano venuti a Firenze, avevano conosciuto il negozio, avevano fatto un acquisto ed erano rimasti in contatto con la rete vendita del negozio stesso. Quindi quando arrivavano nuove collezioni, l'addetto alle vendite magari chiamava, mandava un fax, perché ai tempi ancora i mezzi erano questi, e loro, per garantirsi in anteprima questi capi, mandavano in pegno la fotocopia della carta di credito. È di lì proprio che è nata l'idea di fare l'e-commerce, perché io stavo aspettando delle licenze della Microsoft a quei tempi, del pacchetto Office, che era il primo passo della digitalizzazione dell'ufficio, e con queste fotocopie andai in amministrazione a chiedere spiegazioni. Quando mi dettero la spiegazione, mi si aprì un mondo, perché dissi: ma questi stanno facendo l'e-commerce, cioè l'e-commerce offline. E di lì è partita l'avventura, che oggi, insomma, dà lavoro a oltre 150 persone. E questo è effettivamente incredibile. Oddio, se uno è esperto di e-commerce non lo ritiene incredibile, però effettivamente, partendo da un negozio fisico, perché oggi il negozio fisico è l'unico punto fisico che rimane, c'è un secondo negozio, sì, ma di fatto, insomma, l'altro negozio è più un outlet che un negozio a tutti gli effetti. Questo è l'unico negozio fisico. E non c'è in progetto di aprire altri punti vendita. Considera che in questo momento del fatturato l'online pesa per il 90%. Quant'è il fatturato? Circa 100 milioni di euro. quindi meno di 10 milioni sono il negozio, perché comunque parliamo di un negozio che vende capi di un certo valore, però l'e-commerce negli ultimi anni è veramente esploso. Considera che noi abbiamo chiuso il 2008 con 6 milioni di euro e chiuso il 2014 con quasi 100 milioni, quindi insomma è una crescita impressionante. Senti, ti faccio una domanda sulla capacità di distinguervi su internet, perché effettivamente uno, se uno passeggia per Firenze, entra nel negozio e fa fatica a fare confronti con tanti negozi. Online uno può fare confronti con tantissimi negozi, passare da un punto ad un altro molto semplicemente, e poi voi non vendete capi prodotti da voi, vendete capi moda che si possono acquistare anche in altri siti, giusto? Assolutamente. Quindi come vi distinguete? Allora, la prima cosa è la selezione. Ovviamente designer come Dolce & Gabbana, Roberto Cavalli, Balmain offrono collezioni vastissime con una gamma di prodotti importante. Il punto di forza di Luisa da sempre è riuscire a selezionare i prodotti icona all'interno della collezione, per cui il cliente che si ferma perché vede una scelta unica e un abbinamento tra designer, quindi nel concetto del total look, che si trova in pochi altri posti. La maggior parte dei nostri competitor sono dei department store dove hanno quasi tutta la collezione, cioè è una scelta diversa, lì lavorano sulla quantità, noi lavoriamo sulla qualità della scelta e ovviamente poi cerchiamo di produrre contenuti editoriali e di arrivare all'utente stimolando una curiosità a venire su Luisa Via Roma per capire qual è il capo di tendenza, quali sono i must have di stagione, perché sicuramente quello che ha scelto Luisa, 99 su 100, sarà indossato da tutti gli influencer del mondo. Cioè, ci azzeccate molto bene, quindi... Ci azzecchiamo. Questo però è molto interessante, la dice lunga sul mito della disintermediazione di internet, quindi non è vero, non è completamente vero che la gente ama perdere ore, giorni, mesi, settimane per scegliere in un catalogo infinito. No. Cioè il ruolo di chi fa intermediazione invece, nel vostro caso è nel campo della moda, ma immagino insomma che valga anche nel campo del cibo e nell'informazione anche. Quindi... In realtà è proprio il contrario. In particolar modo il target alto ha pochissimo tempo a disposizione. Ce l'ha offline, ce l'ha online. Non è che online uno riesce a investire molto più tempo, il tempo a disposizione è sempre meno, per cui il cliente di Luisa Via Roma entra in Luisa Via Roma, sa cosa vuole, sa dove andarlo a prendere e lo vuole ricevere nel più breve tempo possibile. Rispetto al passato, oggi l'utente ha bisogno di arrivare a quello che cerca nel minor tempo possibile, per cui molti filtri, quindi non più pagine colme di articoli alla ricerca della tua taglia piuttosto che del tuo colore. No, scegli il designer, scegli la tua taglia, scegli il colore preferito e hai a disposizione una selezione esclusiva di capi che rispecchiano le tue esigenze. Pochi click e il prodotto è a casa. Voi puntate anche sul Made in Italy? Assolutamente. Direi che i più importanti designer che vendiamo sono designer italiani che producono in Italia. Gli altri spesso sono francesi che comunque producono in Italia, quindi direi che il Made in Italy ha una componente importante. E il fatto che voi siate italiani, cioè un e-commerce italiano, è importante? Assolutamente, non solo, il fatto di essere a Firenze aggiunge interesse al progetto. Spesso, soprattutto ultimamente, ci hanno consigliato di, soprattutto per i mercati asiatici, di non andare a spedire paese su paese. Cioè, oggi per cercare di offrire un servizio migliore spesso si cerca di aprire delle unità logistiche in Asia, in Cina, Hong Kong, in modo da garantire tempi di spedizione e di reso più rapidi. Molti degli influencer asiatici ci hanno consigliato di non farlo perché il cliente importante cinese vuole vedere che il prodotto arriva dall'Italia, perché purtroppo il mercato interno è inquinato da tutta una serie di dinamiche, di falsi, di contraffazioni, per cui la garanzia della spedizione dall'Italia è un elemento fondamentale. Questo è interessante e ci stai dando un elemento che vale per il Made in Italy in generale. Assolutamente, assolutamente. Senti, un altro aspetto interessante è che voi vi rivolgete, tu ci hai detto più di 120 paesi nel mondo, a tante lingue diverse vi rivolgete. Sì, noi in questo momento il nostro sito è tradotto in 8 lingue. Tra cui russo, cinese, coreano, francese, tedesco, inglese, italiano, spagnolo. Il giapponese è in roadmap perché non troviamo un madrelingua giapponese a Firenze, che non è una cosa banale. E soprattutto non è banale farlo rimanere qui. Sì, non è banale farlo rimanere qui perché noi facciamo tutto internamente. Per ogni paese noi costruiamo un team composto da due persone, uno si occupa della parte editoriale, quindi traduzione e produzione di contenuti in lingua, l'altro si occupa della parte marketing, quindi lo sviluppo del mercato e il posizionamento di Luisa all'interno del mercato stesso. Ovviamente, essendo a Firenze, che non è bellissima, una città incredibile, però non è Londra, quindi trovare persone madrelingua con un po' di esperienza che abbiano il permesso di soggiorno e che vogliano rimanere a lavorare qua non è la cosa più banale. Certo. Quello che voi avete fatto e realizzato, secondo te, è replicabile in altri business made in Italy o è un unicum molto difficile da replicare? No, secondo me ci sono, in particolare per esempio sulla la parte alimentare, ci sono ancora tantissimi margini perché i player non sono tantissimi. C'è tutta una parte nuova del bio, bio, vegan, è tutto un settore che sta entrando in modo importante e che non ha un numero di player ancora insomma, rilevante sul mercato, per cui è una cosa che può essere replicata. Sicuramente nella moda è più complesso. Ci sono più competitor? Ci sono più competitor, anche se non sono tantissimi, però hanno una quota di mercato importante. Senti, come fate per farvi conoscere da chi oggi non vi conosce ancora? Internet è una straordinaria opportunità, insomma, è veramente incredibile. Bisogna investire in pubblicità o bisogna investire in attività social, insomma è una cosa un po' complicata, però le opportunità effettivamente sono tante. Sì, il paradosso è quello che c'è moltissima gente, ce n'è talmente tanta che riuscire a raggiungerla e a raggiungere quelli che sono poi gli utenti che sono in linea con il tuo progetto non è banale. Ovviamente il marketing la fa da padrona con i canali che sono canali di acquisizione classici come SEM, cioè tutta la parte di motori di ricerca, quindi con Google e anche con altri motori declinati su paesi diversi, perché Google su tutta la parte occidentale ovviamente è molto forte, però per esempio in Asia abbiamo Baidu, abbiamo Yandex in Russia, abbiamo Naver in Corea, quindi noi cerchiamo anche di seguire quelle che sono ovviamente le tendenze legate al singolo paese. E tutta la parte display, quindi i banner classici, sì, tradizionali. Sì, più o meno, cerchiamo sempre di essere il meno classici possibili, però per alcuni posizionamenti importanti con gruppi editoriali ovviamente è un punto importante. E poi puntiamo molto alla collaborazione con tutta la parte di media influencer, quindi blogger, quindi press online, quindi instagrammer, cioè tutti quelli che hanno un peso all'interno della rete che possano aiutarci a veicolare il nostro progetto. Sì. La parte editoriale, si dice negli ultimi tempi, già da alcuni anni, che siti di e-commerce, ma in generale chi vende prodotti deve cominciare, e molti lo stanno già facendo, a produrre anche contenuti, a raccontare, cioè il famoso tema dello storytelling, che alcune volte sembra un po' una moda, ma invece forse è anche un'esigenza. Voi come che tipo di opinione ti sei fatto? È un aspetto importante perché il negozio online è uno strumento freddo, ok? Per cui, ok, io ho un'esigenza, entro sul sito, trovo il prodotto al prezzo giusto, pago e lo ricevo. E questo rispondo ad un'esigenza precisa. Però non possiamo basare il nostro business solo su chi sta cercando esattamente quel prodotto là. Noi dobbiamo alimentare la curiosità e la voglia di comprare quel prodotto. La parte editoriale serve a questo, serve attraverso la produzione di contenuti esclusivi. Noi, pur essendo un team piccolo, cerchiamo di fare coverage delle principali sfilate, quindi Londra, Milano, Parigi e spesso anche New York, cercando di dare una chiave di lettura che non è di tipo giornalistico, cioè il raccontare quello che sta succedendo in modo asettico. Cerchiamo sempre di interpretare quell'evento con l'occhio di Luisa Via Roma. E in questo modo speriamo di produrre dei contenuti che siano leggermente diversi dai contenuti standard e che portino l'utente a dire: ma mi fai vedere chi è Luisa Via Roma? A quel punto, una volta arrivati sul sito, tu rispondi a questa curiosità e a questa esigenza di approfondimento. Sì. Sperando di vendere. Certo, di vendere, perché poi il risultato. Senti, tu hai detto che siete un team piccolo, ma mica tanto piccolo, siete, hai detto 120-150. Sì, siamo 150 persone che però divise in tantissimi reparti, perché facendo tutto internamente noi abbiamo i grafici, abbiamo gli sviluppatori, abbiamo il customer service interno, abbiamo tutta la parte di marketing, abbiamo il team di buyer, per cui confrontato con altre realtà come per esempio Net-a-Porter, solo per la parte editoriale ha un team di 150 persone, solo per la parte editoriale. Quindi in totale mi sembra conti 1500 persone di staff, e in realtà fa solo, mi sembra, 6-7 volte quello che facciamo noi. Quindi ha uno staff che è 10 volte il nostro, ma non ha la stessa proporzione nel volume di affari. Quindi in realtà poi i singoli team sono sottodimensionati. Sì, a proposito di team e di persone, a parte il fatto che siete a Firenze, però diciamo non siete nemmeno in una provincia remota, si trovano le professionalità adatte per il tipo di lavoro che fate, per fare e-commerce? Purtroppo no. No, perché non ci sono percorsi scolastici istituzionali che formano i ragazzi a questo tipo di lavoro. La maggior parte sono derivati di corsi di marketing oppure corsi di informatica, che però soprattutto per l'Italia subiscono il solito problema di un grosso gap tra quello che è il mondo dello studio e quello che è il mondo del lavoro. La maggior parte delle persone che lavorano con noi e per noi sono formate internamente. Quindi sono persone che magari hanno fatto un percorso di studi compatibile con il nostro progetto, però poi vengono formati internamente, e questo è per l'Italia è uno dei problemi più importanti. In altri paesi anglosassoni, per esempio, la formazione è già molto orientata al digitale rispetto a noi, e quindi là ci sono figure che anche uscite dal percorso universitario scolastico sono già pronte a entrare nel mondo digitale. Per noi non è così facile. Sì, questo sicuramente è un problema. Ti faccio una domanda su quello che immagini, mi verrebbe da dire, the next big thing nell'e-commerce. Che cosa secondo te succederà nei prossimi mesi, anni? Che cosa cominci a intravedere? Bella domanda. Sicuramente. Okay, sono due. O non lo sai, oppure lo sai, ma non me lo puoi dire, non me lo vuoi dire. Diciamo, facciamo una via di mezzo. Sicuramente la parte dell'acquisto in mobilità sarà è già un punto importante, diventerà una cosa quotidiana come il caffè la mattina. L'ipotesi di passare davanti a una vetrina, fare la foto al prodotto o scannerizzare il QR code e comprarlo direttamente senza dover entrare è una cosa che stanno già facendo in tanti e che sarà di uso comune. Quindi da questo punto di vista, a mio avviso, la mobilità è quella che ci riserverà, dal punto di vista dei cambiamenti, delle dinamiche di acquisto, ci sta riservando e ci riserverà più sorprese. Dal punto di vista del business in generale, secondo me ci sarà sempre più una specializzazione del messaggio legato all'utente, cioè andremo sempre più verso un marketing che io definirei one to one. Il messaggio, ogni utente avrà un messaggio personalizzato suo, che è diverso da quello della ragazza piuttosto che del vicino di casa, piuttosto che del collega di lavoro. Questi sono i due temi, secondo me, importanti del prossimo futuro. In questo ultimo caso, i problemi di privacy non sono effettivamente dei problemi, perché C'è chi dice che in realtà la stragrande maggioranza del pubblico, il 99% del pubblico, se ne frega altamente di tutto ciò. Assolutamente, assolutamente. Noi non abbiamo mai avuto una lamentela su problemi di privacy. Alla fine il concetto è: tu hai libero arbitrio di comprare o non comprare. Io cerco solo di rispondere alle tue domande e alle tue esigenze nel modo migliore possibile. Il che non vuol dire telefonarti a casa alle 8:30 quando stai mangiando, perché vi ricordo che da quando esiste la legge sulla privacy in Italia è iniziato il delirio delle telefonate all'ora di cena, cosa che prima della legge non esisteva, no? Per cui c'è da capire effettivamente il confine tra la privacy io penso che sia un sistema per ottimizzare i tempi. Offrire il contenuto che l'utente sta cercando è un sistema per non fargli perdere tempo, per cui secondo me della privacy non gliene può fregare di meno, direi. Bravissimo. Ti faccio un'ultima domanda su outsourcing o non outsourcing. Tu ci hai detto che fate quasi tutto internamente e in alcuni casi invece nel mondo dell'e-commerce c'è un boom, un'esplosione di servizi che si possono esternalizzare. Uno potrebbe addirittura non fare nulla, c'è chi ti fa il sito internet, c'è chi ti fa la logistica, che ti fa la gestione dei pagamenti, il customer care, bla bla bla, e tu potresti non fare nulla, occuparti del prodotto. Perché fate tutto internamente? Allora, intanto perché quando abbiamo iniziato non c'erano alternative. E quindi siamo cresciuti con la cultura del chi fa da sé fa per tre. Quindi quando poi si sono affacciati sul mercato i player importanti che potevano offrire un contributo dall'esterno, noi ormai avevamo una forma mentis che era quella del ok, siamo organizzati. È ovvio che qualcosa è cambiato anche per noi. Per esempio la logistica, che era un punto di forza per noi, è passata all'esterno da aprile del 2015, perché era difficile scalare. Cioè, nel senso, arrivati a una certa dimensione, riuscire a essere competitivi come un operatore che fa solo quello, perché un operatore di logistica fa della logistica il suo core business, era antieconomico. E quindi in questo caso abbiamo deciso di esternalizzare. Per il resto, per ora la tendenza è ancora a strutturarsi internamente, perché i tempi di risposta sono molto più rapidi quando hai le risorse interne. Il nostro titolare Andrea Panconesi arriva in azienda, ha un'idea, il giorno dopo l'idea è pronta e fatta. Non c'è da contattare il fornitore, fare il brief, sentire il preventivo, l'analisi. Internet purtroppo ha dei tempi molto serrati e il fatto di fare una buona parte del lavoro in house consente di stringere notevolmente questi tempi e quindi essere più competitivi. E questa era la voce di Nicola Antonelli, che è responsabile e-commerce per Luisa Via Roma, di luisaviaroma.com, uno dei più grandi player al mondo dell'e-commerce di moda online. Bene, è tutto per questa puntata di 2024, come sempre grazie per la vostra attenzione. Vi abbiamo proposto le nostre interviste in versione integrale anche in questa puntata, nella nostra versione podcast. Ci risentiamo tra 7 giorni, ricordate che andiamo in onda il venerdì sera tra le 22 e le 23, domenica alle 13 dopo il GR delle 13, oppure sempre in podcast. Consigliate anche ai vostri amici e ai vostri parenti di abbonarsi al nostro servizio, di più non possiamo fare, non possiamo regalare credito telefonico per tutti gli abbonati, dovremo fare un accordo specifico per questo caso. Allora, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, oltre ai canali Twitter oppure Facebook, scriveteci a 2024@radio24.it. Grazie ancora e un buon ascolto con i nostri programmi. 2024. 2024. 2024. 31 seconds anywhere.